Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. L'assicurazione non pagata sarà rilevata anche dalle telecamere delle ZTL. Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno che con una circolare degli scorsi giorni ha autorizzato l'utilizzo delle telecamere dei comuni italiani usate per controllare normalmente gli accessi alle zone a traffico limitato. La multa per le auto senza assicurazione in questo caso scatta solo se il guidatore viola le ZTL o le corsie riservate a bus e tram. Solo in caso di infrazione, infatti, le telecamere possono attingere alle banche dati della motorizzazione civile e quindi controllare anche la regolarità dell'RC auto. Mercato in calo, ma con qualche eccezione. Avevamo già parlato del calo del 23% delle immatricolazioni a giugno, segnale di una crisi dell'automotive che non accenna a risolversi, eppure si registrano due tendenze inverse positive: le ibride e i SUV. Secondo i dati raccolti da Unrai, le vendite di ibride sono più che raddoppiate, passando a una quota del 13,3% rispetto al 5,5% di giugno 2019. Anche le auto, diciamo, con seduta rialzata convincono sempre di più. SUV, crossover e fuoristrada sommati fra loro raggiungono ormai quasi la stessa quota delle berline, dividendo di fatto in due macro aree le preferenze degli automobilisti italiani. Un segnale di mercato positivo arriva anche dalle usate. Mettendo da parte le mini volture e i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale, a giugno 2020 i passaggi di proprietà sono aumentati del 6,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Sono ben 248.700 le auto di seconda mano vendute, con il diesel in testa, seguito dall'elettrico e dall'ibrido in costante ascesa. E cambiamo decisamente argomento perché parliamo di e-mobility, mobilità intelligente, mobilità alternativa, mobilità sostenibile. Questa settimana è stato presentato il nuovo volume che raccoglie le 100 storie di e-mobility in Italia, nuovo perché in realtà si tratta di una riedizione di un volume del 2017 curato, come per quanto riguarda la prima edizione, da Enel in collaborazione con Simbola, ma quest'anno anche con la attiva partecipazione di FCA. E allora ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti, e cioè Francesco Venturini, che è la DD Enel X. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. E con Roberto Di Stefano, che invece di FCA è il responsabile e-mobility per la region IMEA. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo con lei, Venturini. Dicevamo seconda edizione, già nel 2017, sembra incredibile, ma del resto nella sua introduzione anche lo stesso amministratore delegato di Enel lo ha ricordato. Già nel lontano 2017 fu difficile selezionare 100 storie, perché ce ne sarebbero molte di più. Probabilmente quest'anno avete avuto il doppio dei problemi. Assolutamente sì, c'è stata un'evoluzione importantissima negli ultimi tre anni. Devo dire che le imprese che avevamo visto nel 2017 in gran parte sono cresciute in maniera importante, direi in maniera esponenziale. Alcune sono andate fuori all'estero e stanno raccontando delle storie di grandissimo successo. Faccio un esempio per tutte: Energica, che è questa azienda che produce motociclette elettriche di altissima gamma, che poi è il nostro partner nella Moto E, ormai sta invadendo qualsiasi mercato in giro per il mondo con queste motociclette, sono veramente dei mezzi straordinari. E poi abbiamo aggiunto tutta una serie di storie nuove. Sono soltanto 100, questo è il grande problema, perché nella realtà ce ne sarebbero molte, molte di più. Nella realtà l'azienda Italia, che spesso e volentieri è fatta di aziende di media grandezza, è un'azienda che tende a evolvere molto più rapidamente di quello che si pensi, e penso che questo libro lo rappresenti molto molto bene. Certo, un libro che ha visto una partecipazione attiva quest'anno anche da parte DFCA, ne parliamo con Roberto Di Stefano. Moto, ne parlava prima Venturini, ma soprattutto auto, che in qualche modo sono l'emblema dello sviluppo della e-mobility per il prossimo futuro. Sì, automobili sono l'argomento che sui tavoli di discussione quotidiano, il più noto, il più famoso, il più evidente, ma non è solo quello, perché in questo lavoro su cui noi abbiamo collaborato con tutto il nostro team tecnico si affrontava il tema di tutta la filiera che è nel pieno della transizione verso una forma di mobilità nuova, più moderna e sostenibile, per cui un lavoro importante, la nostra partecipazione quest'anno attiva nella selezione è stata più impegnativa del previsto proprio per la numerosità dei casi delle aziende che il sistema Italia sottopone, propone, per cui è stato un processo lungo, difficile, perché non selezionare una è sempre complicato, perché erano tutte certo. casi positivi e buoni. Ecco, sotto questo punto di vista, qual è l'apporto che ha portato FCA a questo volume e che porta al dibattito sulla e-mobility in Italia? Tra l'altro noi ci siamo sentiti proprio qualche settimana fa per parlare dell'esperienza di Torino, che è un banco di prova interessante per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda il centro storico. Quali sono le altre storie che voi raccontate in questo volume? Ma come abbiamo detto mercoledì durante l'evento di presentazione del volume stesso, abbiamo soprattutto contribuito a parlare di sistema, cioè di tutto ciò che serve a far sì che la forma di mobilità elettrica, sia essa autoveicolare o di altre forme, diventi facile da usufruire per il cliente finale, no? Che diventi un sistema integrato, e dunque nella selezione abbiamo ovviamente preso casi che vadano a comporre questo mosaico che è necessario per rendere competitivo questa forma di mobilità evoluta. Oltretutto integrato con i sistemi delle smart city, con il sistema digital, che sono condizioni fondamentali perché questa mobilità abbia successo e diventi competitiva verso il cliente finale poi. Certo. Venturini, noi dicevamo la seconda edizione, in realtà andando a scavare un po' questa sarebbe la terza edizione, perché ce n'è stata ancora una precedente, il 2017, ma comunque in tutti questi casi l'energia elettrica in questo caso è un po' il filo conduttore. Ecco, qual è il ruolo oggi di Enel X e quale sarà il ruolo futuro nello sviluppo della e-mobility? Enel X come ruolo preponderante è ovviamente quello di andare a costruire l'infrastruttura di ricarica in particolare, che serve alla mobilità. Siamo molto concentrati noi sull'infrastruttura relativa alle automobili, all'infrastruttura relativa agli autobus, in particolare al trasporto pubblico, e cosa abbastanza sorprendente, specialmente se si guarda indietro appunto a queste due edizioni, iniziano a spuntare casi di importanti anche di mobilità marittima, sempre elettrica ovviamente, e addirittura ormai nel mondo si parla in maniera abbastanza chiara anche di possibilità di arrivare a un trasporto aereo di tipo elettrico. Quindi il nostro ruolo è quello di fornire tutto quello che serve per andare a ricaricare questi mezzi che rappresentano la mobilità del domani di tutti noi. Lo dobbiamo fare in maniera intelligente, nel senso che dobbiamo aspettarci che, così come vediamo che queste aziende rappresentate nel libro stanno evolvendo, anche il nostro modo di si fare mobilità evolverà. Roberto parlava prima di mobilità intermodale, di digitalizzazione. Le nostre abitudini stanno cambiando. Io ricarico la mia macchina elettrica nel mio garage di casa, difficilmente mi fermo sulla stazione pubblica, perché ho la fortuna di avere un garage, però è anche necessario pensare che ci saranno dei viaggi più lunghi, quindi non soltanto cittadini, dovrò ricaricare l'automobile, quindi avrò bisogno di ricaricarla in tempi molto più rapidi, quindi con potenze diverse e strutture diverse. Noi abbiamo ospitato in queste ultime settimane diverse case costruttrici che adesso stanno proponendo dei modelli full electric di lunga percorrenza, con autonomie di 300-400 km. Il tema rimane però sempre quello della ricarica veloce, e quindi con impianti di alta potenza e lungo le direttrici autostradali soprattutto, quindi non solo nei centri urbani. Quando avremo in questo senso una infrastrutturazione completa di questo paese? Allora, iniziamo con il dire che la tecnologia sta evolvendo e sta evolvendo in maniera molto rapida. Noi stiamo in questo momento installando stazioni di ricarica che hanno un massimo di potenza di 350 kW, già si stanno sviluppando nel senso pratico, quindi installando stazioni di ricarica che arrivano a 900 kW, in particolare nel sud-est asiatico, e là dove si stanno formando gli standard sia di ricarica che poi ovviamente dall'altra parte che servono per le automobili per essere ricaricate. Quindi la tecnologia sta evolvendo in maniera, come dicevo, rapida, e ci permetterà domani veramente di ricaricare queste batterie in minuti, quindi sistemi molto simili a quelli che vediamo oggi con il cosiddetto carburante normale. Per quanto riguarda l'infrastrutturazione del resto del paese, io direi che ci siamo molto vicini, si sta collaborando con la società autostrade e con il resto delle società che gestiscono le grandi arterie autostradali italiane. Io penso che vedremo grandi esempi di elettrificazione delle autostrade in Italia molto molto presto. Bene, e noi ovviamente aspettiamo di vedere questo processo, anche perché ormai le tecnologie anche delle auto sono arrivate a dei livelli di autonomia davvero interessanti. In questo senso, Roberto Di Stefano, e siamo in conclusione, quale sarà in particolare l'offerta di FCA da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni su questo fronte? Ma a noi, come ormai è pubblico, nei prossimi giorni avremo sul mercato le prime vetture con la spina, come le chiamano in tanti, le plug-in hybrid della Jeep e la tanto attesa 500 elettrica, e poi a seguire Ducato, e poi a seguire tutta la nostra gamma dal 2021 in poi, ma sia essa di segmento che di brand, sarà attraversata da elettrificazioni e molte appunto plug-in hybrid o elettrici. Ovviamente l'evoluzione tecnologica porterà anche ai nostri prodotti la possibilità per il cliente finale di avvicinarsi sempre di più alla modalità oggi comune a cui tutti siamo abituati, di fare un pieno di carburante in pochi minuti. Anche qui la nostra gamma evolverà in questo senso con l'evolvere dei sistemi sia di ricarica che di batteria, perché poi alla fine le potenze di ricarica di cui parlava prima Venturini. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo i nostri primi due ospiti, Francesco Venturini a DDN Elix, Roberto Di Stefano, responsabile e-mobility IMEA di FCA. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori. Restate con noi, a tra poco. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Strade e Motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Parliamo in questa seconda parte di Hyundai, questa settimana conferenza stampa di Hyundai Italia, per fare un po' il punto della situazione, anche alla luce di quelli che dovevano essere gli incentivi del governo in favore del settore. Beh, Hyundai ha deciso di fare un passo avanti perché ha anticipato questi incentivi con una serie di offerte per i clienti, di cui ci parlerà questa sera il nostro ospite, che è Andrea Crespi, che è il direttore generale di Hyundai Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, buonasera ai tuoi ascoltatori. Allora, cominciamo con questa formula che avete deciso di adottare per incentivare l'acquisto delle vostre auto, insomma una serie di benefit che toccano anche i primi utilizzatori dell'auto, quindi ce li racconti un po' nel dettaglio. Sì, assolutamente. Innanzitutto forse vale la pena dire che noi abbiamo fatto questo intervento perché è assolutamente necessario intervenire nel mondo dell'auto, che è un settore importantissimo che garantisce un gettito fiscale molto importante allo Stato. Quasi un terzo di chi voleva comprare la vettura nel mercato auto è uscito dal mercato. Ecco, noi li vogliamo riportare dentro e li vogliamo riportare dentro attivando un grande cambiamento del parco circolante, uno svecchiamento molto, molto accentuato. In Italia ci sono circa 38 milioni di vetture che circolano e quasi più della metà di queste hanno sostanzialmente più di 20 anni, quindi sono veramente da rinnovare sotto il profilo sia tecnologico che dal punto di vista delle emissioni. E credo che noi abbiamo fatto, stiamo facendo in questi giorni una proposta molto importante al mercato, anticipando quella che è l'offerta che probabilmente arriverà con gli incentivi governativi. Sostanzialmente proponiamo fino a 1.500 euro di vantaggio per chi vuole rottamare la sua vettura con un'età più alta di 10 anni, ma abbiamo anche fatto questo pensando a chi già guida una Hyundai, quindi sostanzialmente chi guida già una Hyundai può accumulare il vantaggio di altri 1.000 euro e infine abbiamo anche voluto attirare l'attenzione per chi in questo momento magari è la prima volta che guida un'auto o si vuole appunto affacciare a questo mezzo di trasporto perché non vuole utilizzare altri mezzi di trasporto dovuti alla pandemia, diciamo al fatto che non si sente sicurissimo, e quindi abbiamo dato un vantaggio di altri 500 euro nel caso ci sia un new buyer, quindi qualcuno che si avvicina per la prima volta all'auto. Certo, ecco, tutto questo su una gamma che voi avete sostanzialmente mantenuto, nel senso che a differenza anche di altre case costruttrici avete conservato tutte le uscite previste, quindi quali sono le vetture attualmente disponibili e quali vedremo nel 2020? Allora, credo che questo sia un altro punto estremamente importante che mi fa molto piacere sottolineare, il fatto di cui andiamo anche particolarmente orgogliosi. Il gruppo Hyundai ha confermato tutto il piano di produzione che aveva nel 2020, quindi il fatto di lanciare e rinnovare tutta quanta la gamma. Quindi noi in quest'anno siamo ancora con il piano di cambiare e rinnovare totalmente la gamma. Abbiamo iniziato con l'i10 all'inizio di gennaio, adesso siamo in questi giorni alle prese con tutta la famiglia i30, ma l'i20, tutti i SUV verranno cambiati nel corso dell'anno, proponendo dei prodotti estremamente aggiornati sia in termini di tecnologia che in termini di emissioni. E poi l'altra cosa che mi piace sottolineare è che alla fine dell'anno praticamente Hyundai avrà il 90% della gamma completamente elettrificata, quindi con le soluzioni che il nostro marchio offre, che è l'unico anzi ad offrire, perché Hyundai, ricordiamolo, è l'unico che offre le 5 tecnologie elettrificate, da il mild hybrid fino all'idrogeno, ce le ha tutte a listino, e quindi questo rinnovamento di cui parlavo prima del parco circolante sarà particolarmente focalizzato sul fatto che chi guida Hyundai guiderà un'autovettura con emissioni assolutamente in linea, non solo con le regole e i regolamenti che usciranno nei prossimi anni, ma soprattutto ecosostenibile. Certo, veniamo un po' al mercato, siamo in chiusura, un'ultima battuta riguarda il mercato italiano. Abbiamo visto che sta reagendo in qualche modo al lockdown, ma non come ovviamente le case costruttrici si aspettano. Viaggiamo ancora su riduzioni rispetto allo scorso anno nell'ordine del 20-30% dell'immatricolato. Ci sono degli incentivi governativi di cui abbiamo parlato che riguardano sostanzialmente l'elettrico. Qual è la sua visione sul mercato italiano da qui a fine anno e magari anche nel 2021? Allora, negli ultimi anni, quando c'è stata una grossa crisi, parlo per esempio nel 2008-2009, il mercato si è ripreso solo nell'arco di 3-4 anni. Noi stavamo già vedendo dei segnali di cedimento del mercato che non era proprio in grandissima forma. Gennaio e febbraio sono in arretramento rispetto all'anno precedente e oggi abbiamo perso la metà dei clienti che erano previsti quest'anno. Come dicevo prima, senza incentivi questo bilancio si aggraverebbe, quindi arriveremo a quasi 700.000 persone che volevano comprare una macchina, era previsto che comprassero un'auto ma sono usciti dal mercato. Ecco, credo che l'azione come quella di Hyundai, che anticipa gli incentivi governativi, e poi il fatto che probabilmente questi incentivi verranno approvati magari ad agosto, ecco, diciamo la previsione di mercato migliora leggermente e pensiamo che dalle 2 alle 300.000 macchine possano essere ritornare, diciamo, in vendita, migliorando quello che è il bilancio poi di fine anno. Quindi una visione ottimistica, mi sembra di capire. Con gli incentivi, con un intervento, con uno stimolo alla domanda, assolutamente sì, sempre rimanendo in una sfera, diciamo, di perdita che comunque rimarrà molto, molto rilevante e che recupereremo strada facendo. Certo. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai. L'appuntamento con l'informazione dedicata all'auto e alla mobilità torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.